la nuova e ci... come si chiama? Canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Hola. Comunque, è uscita qua in Mario. Vedo, ma non è che... Hola, sicuro 10, c'è qualcuno in ascolto? Sicuro 10, c'è qualcuno in ascolto? Sicuro Canale 10. Scendo con l'apparecchio su, guarda un po', credo se sei matto. 9:10 Radio 5, però c'hai una specie di rumorino, premi la portante senza parlare. C'è l'alimentatore, c'è l'alimentatore dietro, attaccato al culo del baracchino, hai capito? E poi vabbè, e a parte lo spinotto con cavetto fine, quindi figurati tu. Va bene, Alì, va bene, di lusso, dai, va bene. Dove l'hai buscato il pezzo? L'hai ordinato? No, me l'ha portato Antonio, il pezzo. L'ho dovuto modificare, però. Perché c'erano tutti i cosi attaccati assieme, le zampette, allora ho dovuto usare il saldatore, pinza, a becchi, ad usare tutti i, come si chiama, poi all'ultimo... ho messo un pezzo di cavetto elettrico fine e lungo una decina di centimetri gliel'ho saldato e quindi adesso funziona tutto bene. E tanto pezzi non acciappami, bisogna accontentarsi, bisogna cercare baracchina seconda mano che qualcuno ce l'ha, magari ce l'ha a casa che non usa, magari è rotto e cose del genere, prendere gli apparecchi così e staccare i pezzi che ti servono. L'unica cosa è quello, perché ho chiesto al Ghero e non vendono più niente, Tonino altrettanto, Fusano non c'ha nulla, a meno che non li ordini da internet, ma da internet ci devi pegliare almeno 10 pezzi e non conviene, hai capito? 10 pezzi di quello, 10 pezzi di quell'altro, cazzo, una nulla solo. Beh, se uno che c'è lavoro, lo fa per lavoro, mi conviene averli, ma se uno che lo fa così ogni tanto... Infatti, ogni tanto ho fatto quello di Gio Maria e poi c'era questo l'ho fatto all'ultimo perché non c'avevo il pezzo. Gio Maria mi sono riuscito a buscarne uno di transito per lui, l'ero installato. E zona è a posto. Dove, penso che stia uscendo bene con quell'apparecchio suo. Niente. Pleasure tintin. Ascolta, fammi una chiamata. Sì, certo, non mi ritrovo più il telefono tuo io, bisogna che mi chiami tu a me. Già lo sai, 340-9293-210, fammelo uno squillo tu. Antonio, lì ancora, a lì. Sole. A quell'ora c'era caldo anche.